30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Nel 2008 la riscossione fiscale legata all'attività di contrasto degli inadempimenti dei contribuenti è stata pari a 6,9 miliardi di euro. Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera nel corso della conferenza stampa in cui sono stati illustrati i dati del 2008 e sono stati spiegate anche le strategie di controllo per il 2009. La riscossione conseguita, grazie alla lotta all'evasione fiscale, è un risultato record mai conseguito. Buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca, il programma che si prende il tempo di riflettere sulle notizie che scivolano a volte troppo veloci nel nostro panorama informativo. Oggi parliamo di tasse e, come avete sentito, di una cifra record, quella dei 6,9 miliardi di euro recuperati nel mare magnum dell'evasione fiscale. I risultati nel settore dell'accertamento dimostrano non solo che nel 2008 non c'è stato alcun rallentamento della lotta all'evasione, ma che l'azione di contrasto si è ulteriormente consolidata, sia per volumi sia per qualità dell'azione. Un dato per tutti: la riscossione relativa alla complessiva azione di contrasto agli inadempimenti dei contribuenti, questa riscossione è stata pari a 6,9 miliardi di euro, con un aumento dell'8% rispetto al 2007. Questo è un risultato record, non è stato mai conseguito, ed è tanto più importante perché è stato realizzato in un anno di passaggio come il 2008, in cui è cambiato il vertice dell'Agenzia ed è iniziata una profonda azione di riorganizzazione dell'Agenzia stessa. Questo risultato è il frutto del lavoro delle donne e degli uomini che lavorano nell'Agenzia, persone fortemente motivate, professionalizzate ed in grado di operare bene anche nei momenti di difficoltà. Ecco, ho voluto farvi sentire direttamente la voce del direttore dell'Agenzia delle Entrate e la domanda a questo punto è: fu vera gloria, nel senso stiamo veramente andando verso una svolta nel rapporto tra i cittadini e la fiscalità? Beh, per capirlo ho chiesto aiuto a Dino Pesole, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di finanza pubblica e di fisco. Buonasera Dino innanzitutto. Buonasera Gigi. Allora, fu vera gloria? Stiamo, come dire, cambiando rotta? Dunque, i dati che ha comunicato il direttore Befera sono certamente interessanti, perché 6,9 miliardi di maggior gettito sono una cifra di tutto riguardo. Occorre peraltro precisare che si tratta di una cifra che riesce solo minimamente a intaccare il mare magnum, appunto, dell'evasione fiscale, che le stime più attendibili quantificano in oltre 100 miliardi di euro l'anno. A queste cifre ha fatto seguito immediatamente una sorta, come dire, anche di balletto di interpretazione, perché noi siamo un paese strano e un po' curioso a volte. Le cifre, i numeri, si dice, non dovrebbero avere colore politico, ma poi si prestano a letture differenti. Ad esempio è stato chiesto, soprattutto da parte dell'opposizione, che peraltro ha rivendicato anche il merito di questi incassi, che cosa ci sia dietro queste cifre, cioè è tutta frutto della lotta all'evasione? Precisiamo una cosa: i 6,9 miliardi di cui ha parlato il direttore Befera sono una parte minima delle maggiori imposte accertate. In realtà sono circa 20 miliardi accertati, e di questi accertati gli effettivamente riscossi sono 6,9. Cioè 20 sono i miliardi accertati come evasione su cui l'Agenzia delle Entrate scontava di mettere le mani sostanzialmente? Esattamente, si arriva a 6,9 perché, come noi sappiamo, tra l'accertato e il riscosso c'è una zona indistinta, una specie di limbo che è sostanzialmente caratterizzato dal contenzioso. Quindi, per riepilogare un primo punto, l'evasione ammonta a oltre 100 miliardi di euro, l'accertato è intorno ai 20 e quello che viene riscosso è 6,9 miliardi e nonostante tutto questo è un record. Ecco, questo è, diciamo, il dato grezzo sul quale bisogna riflettere. Il record, nel senso che si tratta comunque di un risultato significativo, però attenzione a guardare nelle cifre, perché se noi guardiamo nelle cifre vere scopriamo che in realtà all'interno di questi 6,9 miliardi ci sono, è vero, oltre 3,7 miliardi di maggiori imposte accertate per proprio esattamente la lotta vera all'evasione. E poi ci sono anche gli incassi legittimi, per carità, anzi doverosi, che l'Agenzia delle Entrate registra per effetto, come dire, del lavoro che fa sulle dichiarazioni dei redditi, vale a dire se noi abbiamo fatto un errore, anche questo è un gettito contabilizzato in quella cifra. Alcuni dicono, ma è lotta all'evasione? Quindi, cioè, dire, stiamo parlando di una cifra che ti chiederei di ripetere sul totale, e che riguarda appunto quelli che sono gli errori in un sistema fiscale di cui poi parleremo magari tra qualche momento, che non è neanche facile, quindi commettere un errore in una dichiarazione, insomma, non è da escludere certo a priori, chiunque abbia avuto a che fare con la dichiarazione lo sa. Sì, si tratterebbe appunto di 3,2 miliardi. 3,2 miliardi. 3,2 miliardi che sono quelli da attribuire a quelli che gli esperti tecnici chiamano attività da 36 bis, che è poi il numero dell'articolo del decreto presidenziale del 73 che disciplina appunto l'accertamento delle imposte sui redditi. Comunque questi sono, diciamo, dettagli anche tecnici. Importante è capire in che direzione l'Agenzia delle Entrate sta andando, perché la polemica politica era sostanzialmente questa: il centrosinistra accusa il governo di aver abbandonato, cioè di aver, come dire, in qualche modo allentato le redini sul fronte della lotta all'evasione. E perché lo accusa di questo? Perché tra i primi provvedimenti del governo Berlusconi nel giugno dello scorso anno c'è stata l'abolizione di alcuni degli strumenti antievasione che erano stati messi in campo dal governo precedente, ad esempio la famosa tracciabilità dei compensi o altre misure. E quindi, diciamo, qui però entriamo in un ambito prettamente politico. Io direi che ce la potremmo cavare un po', come dire, salomonicamente, dicendo che poiché il 2008 è stato un anno di passaggio tra il governo Prodi e il governo Berlusconi, potremmo provare ad attribuire il tra virgolette merito di questo buon risultato a entrambi i governi. Così, insomma. Questa può essere una soluzione temporanea, ma quello che ci preoccupa in fondo è la tendenza. Noi viviamo in un paese in cui diciamo la percezione, il senso della responsabilità ha un grado che possiamo tutti noi misurare ogni giorno nella nostra vita normale. Insomma, richiede una serie di interventi e strumenti che favoriscano, che stimolano, che impongano il pagamento delle tasse. Ecco, a tuo avviso, in questo percorso, in che direzione stiamo andando? Dunque, il discorso è ancora molto problematico, a mio avviso, perché la tendenza è sicuramente quella di un paese che vive, a parte, diciamo, gli effetti temporanei, speriamo, di una crisi economica molto pesante, che ovviamente ha degli effetti anche sul fronte del gettito, ma di un paese che tendenzialmente presenta livelli di evasione che sono da record mondiale. Noi vantiamo, tra virgolette, possiamo porre in campo un'evasione fiscale che a mio avviso è sostanzialmente incompatibile sia con un ordinato sviluppo dell'attività economica e soprattutto con l'equilibrio dei conti dello Stato. Quindi la direzione, il direttore Befera ci ha detto che quest'anno, 2009, l'Agenzia delle Entrate conta di recuperare 7,2 miliardi contro i 6,9 dell'anno precedente. Sì, c'è un leggero incremento, ripeto, mi sembra interessante che l'Agenzia delle Entrate tra l'altro concentri il 50% delle sue risorse su questo fronte, ripeto però che siamo ancora a cifre molto molto distanti dalla complessità e dall'entità del fenomeno che abbiamo prima descritto. Insomma, esiste anche un'incompatibilità con la modernità, perché naturalmente questa capacità di imporre il pagamento delle tasse ha delle ricadute pesanti su quelli che sono i servizi, su quello che è la vita quotidiana. Alcuni dati che vorrei citare: in termini di gettito stiamo parlando di qualcosa come il 7% del PIL mancante, il valore aggiunto dell'economia sommersa in Italia si avvicina ai 250 miliardi di euro, 18% del PIL, sono numeri enormi ancora. Sono numeri enormi. se per caso e per ventura nel prossimo futuro noi fossimo in grado di recuperare anche una piccola fetta di questo enorme imponibile sottratto a tassazione, potremmo fare delle cose straordinarie nel nostro paese. Ad esempio immaginare di impostare, non so, un piano straordinario per la costruzione di scuole, ospedali, abbattere la spesa per interessi che noi dobbiamo pagare ogni anno per il nostro debito pubblico, che lo ricordo ammonta oltre 70 miliardi di euro l'anno, dunque potremmo fare molte cose, quindi questo è il vero macigno che ci portiamo sulle nostre spalle e come dire, è apprezzabile lo sforzo e il tentativo dell'Agenzia delle Entrate. Credo che per ottenere dei risultati significativi occorra una fermissima volontà politica, combattere l'evasione con accertamenti veri, mirati. Ad esempio è inutile a mio avviso che l'Agenzia delle Entrate continui a disperdere le proprie energie nel perseguire gli errori formali, deve fare dei controlli veri e non credo che sia ormai un'operazione impossibile quando con l'uso della telematica, ad esempio, si possono incrociare agevolmente i dati delle varie banche dati. Gli errori formali, poi ne parliamo, sono anche quelli appunto legati alla complessità, sono quelli anche compiuti in buona fede da chi deve gestire appunto quella che è la dichiarazione. 30 minuti in cronaca. Al Capone era un mafioso spietato, aveva sulla coscienza centinaia di morti, ma quando l'hanno preso, come forse molti di voi ricorderanno anche dal bellissimo film di Brian De Palma di Untouchable, non è per il sangue che ha versato, ma per le tasse che non ha pagato. E si fece 7 anni di carcere. Allora, Dino Pesole, questa citazione, per quanto, se vogliamo, leggera, è però di sostanza, perché ci racconta un atteggiamento culturale molto differente, quello degli Stati Uniti, nei confronti dell'evasione fiscale. In Italia la sensazione è che ci sia un'estrema durezza nei confronti degli errori, degli errori in buona fede, e non altrettanta fermezza di fronte alla vera evasione o addirittura la frode fiscale. Esattamente, tu giustamente parli di atteggiamento culturale. Da noi, occorre dirlo con chiarezza, cioè la percezione che il medio cittadino ha di poter subire un controllo fiscale è abbastanza scarsa, perché insomma si preferisce tentare la sorte e anche della piccola evasione, del piccolo tributo che viene evaso. Da noi diciamo l'atteggiamento culturale medio che si ha nei confronti dell'evasore è quasi quello di un'ammirazione per chi riesce a farla franca rispetto a noi che siamo il popolo dei cosiddetti tartassati e che non possiamo in alcun modo sfuggire al pagamento delle imposte. L'atteggiamento culturale però è pericoloso, nel senso che noi non avendo, come negli Stati Uniti e nella cultura anglosassone in genere, una chiara percezione di un elemento fondamentale, che è questo: lo Stato non è altro da noi, lo Stato siamo noi, e quindi chi evade arreca un danno allo Stato e dunque anche a noi. Questo senso, diciamo, della collettività, della comunità, da noi è quasi del tutto assente, e questo è il retroterra culturale che alimenta l'evasione o comunque non la combatte, e questo è un salto culturale che da noi dovrebbe essere fondamentale costruire, a mio avviso, anche partendo dalle scuole. Ecco, tu hai analizzato in un lavoro recente che hai svolto con Francesco Pio, si chiama Il Patto, proprio cittadini e Stato dal conflitto a una nuova civiltà fiscale, hai analizzato quella che è la possibilità di cambiare, la possibilità di cambiare, perché altrimenti insomma saremmo un popolo senza speranze. E ora parli delle scuole. Cosa si fa nelle scuole? Come si insegna la responsabilità civile in relazione al pagamento delle tasse? Ora purtroppo non la si insegna più, ma il ministro Gelmini tempo fa ha detto che comunque ci sarà nel prossimo futuro di nuovo l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica, quella che un tempo si chiamava educazione civica, e io credo che sia questa la strada, cioè se noi già ai ragazzi cominciamo a insegnare, ad esempio molto spesso si chiede e ci chiedono, ma le tasse a cosa servono? Allora se non si riesce a spiegare già fin da bambini nelle scuole che le tasse non sono un optional, non è una cosa che va attribuita, come dire, alla volontà dei singoli, ma sono un dovere che lo Stato impone ai cittadini, in cambio del quale lo Stato fornisce dei servizi. Poi si può aprire un discorso se siano servizi buoni o cattivi, però questo è il compito delle tasse. Se non si fa questo non si riesce nemmeno a far capire che pagare le tasse è un dovere e a questo dovere non ci si può sottrarre. Cioè si arriva al punto che si fa fatica persino a percepire che la sanità, il sistema scolastico pubblico, insomma le fondamenta di uno Stato sociale sono pagate attraverso le tasse. Esattamente, poi si può aprire, dicevamo, una riflessione. Io ad esempio sono tra quelli che ritengono che il sistema pubblico italiano presenti anche delle ottime, non sono tra quelli che dicono che diciamo, i servizi italiani siano tutti pessimi, ad esempio la sanità, certo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata considerata, la sanità italiana, tra le migliori del mondo, poi lì possiamo discutere. Certo, si può sempre migliorare, sì, però come dire, non è una scusa per dire beh non pago le tasse perché il mio sistema sanitario, che peraltro come dicevi è indicato al secondo posto dopo solamente la Francia, insomma non funziona come vorrei. A proposito di tasse e di pagare, ci sono due grandi famiglie di pensiero, se non sbaglio, cioè l'idea che bisogna pagare tutti per pagare meno e quella apparentemente, solo apparentemente molto simile, del pagare meno per pagare tutti, che poi è quella più vicina anche culturalmente al nostro attuale governo. Ci aiuti un po' a individuare quelle che sono le strategie correnti per aumentare il gettito? Sì, questi che hai citato sono i due manifesti, diciamo, fiscali della sinistra e della destra che poi nelle ultime elezioni politiche si sono un po' rincorsi, intersecati, addirittura per certi aspetti forse anche copiati gli slogan. La strategia per un recupero effettivo di imposte, per un cambio culturale, secondo me dovrebbe consistere nel fatto che si cominci finalmente, che l'amministrazione cominci finalmente a fare accertamenti veri, mirati, che faccia, come dire, arrivare la percezione alla gente che comunque lo Stato c'è, ma lo Stato non deve essere semplicemente, come dire, lo Stato gendarme che mostra il suo volto feroce, io so fare l'accertamento. Deve essere anche uno Stato che dialoga col cittadino, che semplifica la vita al cittadino. Perché viceversa, se il cittadino si trova nel suo, diciamo, obbligo di pagare le tasse di fronte a una marea sterminata di complicazioni, e questa non è una certamente una cosa che facilita il suo compito. Ecco, lo stesso Befera ci ha ricordato che l'attuale fascicolo della dichiarazione dei redditi si compone di 141 pagine, 153.236 parole e ha anche aggiunto 786.636 caratteri. Beh, questo sicuramente ci mostra un sistema che nella migliore delle ipotesi è faticoso e complesso. Faticoso e complesso. Occorre dire che negli ultimi anni sono stati fatti dei passi in avanti obiettivamente, perché io ricordo nel 1993 si parlava del modello lunare della dichiarazione dei redditi, che poi venne in qualche modo abolito dal governo Ciampi, il ministro delle finanze allora era Franco Gallo. Da allora sono stati fatti obiettivamente dei passi in avanti, c'è stato l'ingresso massiccio della telematica nel fisco e questo ha portato a un indubbio aumento di efficienza anche nella lavorazione di oltre 40 milioni di dichiarazioni di redditi ogni anno. Però tutto questo ancora non basta, cioè la percezione comune che ha la gente è che comunque il fisco e la macchina delle tasse, e non solo, ma la macchina statale in genere, sia una macchina inefficiente. Questa è la percezione che abbiamo un po' tutti noi. Ecco Dino, però cambiare si può o non si può? Ma cambiare si può e secondo me si deve, nel senso che ad esempio l'amministrazione potrebbe cominciare, e le leggi che ci sono glielo consentono, a diventare finalmente più efficiente, perché se l'amministrazione diventa più efficiente, fa controlli veri, non persegue solo gli errori formali, semplifica la vita ai contribuenti e alla gente, ecco che i contribuenti assumono immediatamente un altro atteggiamento, non più difensivo ma collaborativo. Questo potrebbe contribuire a far nascere una nuova civiltà fiscale, una nuova anche un nuovo atteggiamento. Non è utopistico, è una realtà, è un obiettivo cui tendere, un nuovo atteggiamento in base al quale la percezione comune che chi evade arreca un danno a tutta la collettività finalmente riesca ad affermarsi. E questo potrebbe innescare un po' la tesi del nostro libro, un circuito virtuoso che potrebbe consentire di premiare, ad esempio, chi le tasse le paga per intero. E le paga tutte. In una battuta, abbiamo ancora 10 secondi, tornando e concludendo, proprio citando il vostro libro, è vero che paga meno chi paga tutto? Al momento no, perché noi purtroppo siamo in una situazione che ci impone a chi paga tutte le tasse di pagare una sorta, come dire, di extra tassa per chi non le paga. Una quota. Per forza, perché il livello di evasione è talmente alto che non consente di abbassare le aliquote. Dunque chi paga regolarmente le tasse è sottoposto a un prelievo molto alto. Ecco perché la strada potrebbe essere quella di cominciare a premiare chi le paga tutte sul serio. Grazie a Dino Pesole, che è stato con noi oggi per ragionare intorno alla notizia, appunto, con cui abbiamo aperto questo appuntamento di 30 minuti in cronaca. Siamo arrivati alla conclusione, vi ricordo 30minuti@radio24.it, questo come tutti gli altri programmi di Radio 24 sono disponibili su radio24.it. Non mi resta che ringraziare Carmelo Lauricella in regia e augurarvi un ottimo fine settimana.